Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi abbiamo un ospite con noi per parlare di welfare, di sanità. Probabilmente la persona più indicata per parlarne qui in Emilia-Romagna. Lui è Giuseppe Paruolo. Ciao. Buongiorno, ciao. È stato assessore, adesso è consigliere regionale. In questi anni di politica sicuramente puoi raccontarci qualcosa, visto che di esperienza ne hai. Io credo davvero che siamo in uno dei territori con un tessuto più ricco e non è un merito soltanto delle istituzioni, posto che dobbiamo ringraziare ogni giorno i tanti sanitari, professionisti che lavorano nel nostro sistema sanitario e nel sistema del sociale per la qualità che spesso sono assolutamente in grado di metterci. Però abbiamo anche una straordinaria partecipazione, ci sono associazioni che stanno facendo davvero da tanti anni la differenza e che fanno parte integrante di questo nostro sistema. Dobbiamo esserne fieri, credo, dobbiamo riconoscere di essere fortunati da tanti punti di vista e forse facendo dei viaggi ogni tanto uno si può rendere conto di come sia particolare vivere in un posto dove ci si può curare gratuitamente senza che ti chiedano la carta di credito quando entri in ospedale e che in più queste cure non sono di basso livello ma sono di assoluta eccellenza. Detto questo, è inutile appunto autocelebrarsi e bisogna stare assolutamente sul pezzo, cercando di fare sempre di più e di meglio, cercando di sconfiggere, diciamo, le pastoie che a volte la burocrazia mette in mezzo anche di più di quello che è necessario e soprattutto valorizzando le grandi risorse che il volontariato può mettere in campo per cercare di aiutarci ad avere appunto un sistema sempre più attento alle persone. Parlando di volontariato, un grande successo a mio avviso è stata la Casa del Donatore vicino all'Ospedale Maggiore. Quella è una delle cose a cui sono più affezionato. Diciamo, i donatori di sangue, quando vado a incontrarli, cosa che cerco di fare ogni volta che posso, sono una risorsa che dobbiamo ringraziare non soltanto perché consentono di far funzionare bene la sanità, perché ricordiamoci che in tutte le operazioni più delicate c'è bisogno del sangue e il sangue viene appunto da persone che lo donano, ma sono anche dei testimonial del fatto che ci sia una cultura del dono. Viviamo purtroppo in una società in cui siamo abituati a prendere e a chiedere e poco invece a donare. Allora la presenza stessa dei donatori è una presenza che anche dal punto di vista culturale ci dà un grande apporto. E in particolare la Casa del Donatore, che è una struttura bellissima che è stata realizzata lì vicino all'Ospedale Maggiore, è una struttura in cui tutti i donatori che appartengono all'AVIS, che è una delle due grandi associazioni che operano sul nostro territorio, l'altra è appunto la FIDAS basata sul Sant'Orsola, diciamo i donatori dell'AVIS vanno e trovano una struttura di eccellenza sia dal punto di vista architettonico e poi anche dal punto di vista umano, una grande accoglienza. Ci sono affezionato perché erano pronti, diciamo, i soldi per costruirla. Era stata individuata il posto dove farla, ma era tutto fermo perché c'erano dei problemi di permessi legati appunto all'aspetto urbanistico e quindi era tutto bloccato una decina d'anni fa. È una cosa di cui mi sono occupato direttamente. Sono riuscito a far un voto, diciamo, politico molto forte del Consiglio Comunale che ha consentito di superare l'impasse e quindi ha consentito di costruire questa realtà che ancora adesso, ogni volta che mi capita di andarci, credo che sia davvero uno dei fiori all'occhiello e dei biglietti da visita più importanti del nostro sistema sanitario. Un posto, come dicevo all'inizio, dove coopera il volontariato con i professionisti e dove insieme queste due grandi forze, grandi ricchezze riescono a dare il meglio di se stesse. Sì, è una vittoria politica, ma anche una vittoria per tutti, perché si riesce così a sopperire a delle necessità che nella salute e nella medicina sono, ahimè, quotidiane. Possiamo parlare anche di un caso sicuramente che è meno appariscente, però a chi è servito sicuramente ha fatto la differenza, perché se ricordo bene, vado a memoria, il pronto soccorso ortopedico notturno una volta era solo a Rizzoli. Sì, diciamo, c'era stata anche lì una situazione che si andava sedimentando negli anni e quando c'erano tre pronti soccorsi aperti in città si è deciso ovviamente che per la notte uno solo era sufficiente ed era stato individuato il Rizzoli perché era l'ospedale, diciamo, di riferimento dal punto di vista ortopedico. Però dopo, quando hanno iniziato a essere usati gli elicotteri e si è capito che occorreva un posto in grado di soccorrere i grandi traumi, si è individuato il trauma center nel Maggiore. Ecco, occorreva a quel punto spostare il pronto soccorso ortopedico notturno dal Rizzoli al Maggiore, in modo tale che chi appunto dovesse arrivare con un grave trauma, che tipicamente ha bisogno di essere curato sia dal punto di vista neurochirurgico che anche dal punto di vista ortopedico, potesse trovare tutto quello che occorreva all'interno del Maggiore. Purtroppo, ecco, invece, diciamo, la tradizione è andata avanti ancora per un po' di tempo, però a un certo punto ci siamo messi attorno a un tavolo, le aziende si sono parlate, la politica ha fatto quello che deve fare la politica, cioè dare un impulso forte dicendo questa cosa è importante che venga fatta, e ne sono venuti dei frutti importanti, perché nell'accordo che è stato fatto fra l'azienda sanitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli per spostare appunto e aprire il pronto soccorso ortopedico al Maggiore, in modo tale che il trauma center fosse completo anche di notte, si sono, diciamo, individuate delle altre azioni, come per esempio la presenza di sanitari ortopedici del Rizzoli sul territorio bolognese, anche della pianura, in particolare a Bentivoglio, che hanno poi portato a un'operatività che ha consentito appunto un lavoro a rete in cui i medici del Rizzoli sono usciti, diciamo, dalla loro sede storica, andando sul territorio con soddisfazione sia dei pazienti che dei clinici stessi. E quindi questa è un'altra di quelle dimostrazioni in cui il lavoro, quando si riesce a mettere insieme, a mettere in rete le migliori, diciamo, idee e risorse, poi si ottengono dei buoni risultati. Di cui possiamo beneficiare fortunatamente tutti, anche in caso di bisogno. Sì, io credo che questo davvero dobbiamo sottolinearlo di più, dobbiamo renderci conto di quello di cui possediamo, perché il primo passo per perdere qualcosa è non rendersi conto di quello che abbiamo. E ripeto, noi tutti vediamo per esempio negli Stati Uniti un modello di riferimento per tante cose, sicuramente non lo è per la sanità, perché se uno va negli Stati Uniti è bene che si porti la carta di credito dietro per essere molto curato. Fornita, esatto, anche ben fornita normalmente, se vuole un'assistenza di grande qualità, mentre invece in Italia questo non è così. Abbiamo fatto una scelta forte, diciamo, mettiamo nel 1978, cioè il momento in cui è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, poi è stata fatta la scelta di affidare alle regioni la gestione di questo servizio. Questo ha creato anche qualche disparità, perché è inutile nascondersi che ci sono delle regioni che hanno, diciamo, saputo investire di più e meglio nel creare un sistema sanitario robusto, altre invece che un pochino hanno stentato. Però, diciamo, abbiamo la fortuna di vivere in una regione in cui questo servizio è, in tutte le classifiche che vengono fatte, assolutamente valutato ai primi posti. È una fortuna che dobbiamo, diciamo, di cui dobbiamo renderci conto e che dobbiamo mantenere, appunto, cercando di fare sempre di più e sempre meglio. Io ti ringrazio allora per il tuo intervento, ti ringrazio soprattutto per il tuo lavoro, per essere stato qui con noi. Sono io che ringrazio voi, e davvero è una bella cosa che vi occupiate di questi temi, perché credo che siano temi vicini alle esperienze delle persone, su cui siamo chiamati ad ascoltare ogni giorno i cittadini che ci dicono grazie per le cose che funzionano e che ci dicono quali sono invece le cose da migliorare, che sono da risolvere. Sono sempre tante, ma appunto rimbocchiamoci le maniche per mantenere quello che abbiamo conquistato e per farlo sempre migliore. Ma allora ne approfitto prima di salutarti per indicare una cosa che di cui sono a conoscenza e probabilmente potrai dirmi qualcosa di più. C'è una legge che permetterà ai specializzandi con borsa di studio di restare. Sì, diciamo, abbiamo fatto su questo tema, c'è un'emergenza purtroppo di questi anni e in qualche modo mette in luce anche una carenza di programmazione degli anni passati, cioè il numero chiuso a medicina ha consentito di avere, diciamo, una maggior qualità dell'assistenza, però non si era calcolato bene che a un certo punto sarebbero andati in pensione tanti, tanti dottori, e oggi abbiamo un po' di carenze su alcuni settori, e questo fa sì che punteremo appunto su un rilancio. Ci sarà bisogno, diciamo, di una programmazione di più lungo termine per avere più medici, perché è importante che ci siano appunto le persone e i sanitari. Però c'è anche un tema relativo al fatto che appunto le persone che formiamo vorremmo provare almeno in parte a tenercela, ecco, e quindi dove ci sono degli investimenti e delle borse di studio regionali che vanno a beneficio di persone che si specializzano nei nostri ospedali, sarebbe l'idea è proprio quella che ci sia un impegno anche da parte di queste persone di restituire qualche cosa rispetto a ciò che hanno ricevuto, quindi senza scappare via subito, andare a lavorare magari all'estero dove vengono cercati e reperiti, perché sanno che i medici formati nel nostro, diciamo, nel nostro sistema sono medici di grande qualità, però appunto abbiamo bisogno di tenerne un po' anche qualcuno sul territorio, perché vogliamo che questa sanità continui a essere popolata, diciamo, di figure professionali brave e capaci di poter fare del loro meglio per poterci aiutare ad avere una sanità sempre migliore.